giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Almeno un abitante della regione ogni 60 in questo momento ha il Covid, il virus corre, sì, attendono istruzioni per la quarta dose agli over 60. Avviata la procedura fallimentare per la cartiera di Rivignano, il rincaro dei prezzi dell'energia e delle materie prime ha dato il colpo di grazia a un'azienda già in difficoltà. Quantificati in 5 milioni di euro i danni provocati dal maltempo del 29 giugno, la regione interverrà attraverso la protezione civile. Ieri riunione a Cloud con i sindaci. È morto a Trieste Corrado Premuda, insegnante, giornalista e direttore di una rivista per turisti. Recente la pubblicazione del suo libro Trieste senza bora, aveva 48 anni. Torna al Teatro Verdi di Trieste il Pipistrello di Johann Strauss, tra le più celebri operette viennesi, è il primo spettacolo del cartellone estivo del Comunale. Le 8:31, buongiorno e buona domenica da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 8. Trieste 23,5 gradi, mare calmo con una temperatura di 23,5. Udine 22, Pordenone Gorizia 20,5, Tolmezzo 18,5. Forni di Sopra 18, Piancavallo 14, Tarvisio 13, Sappada 11, Monte Zoncolan 10, Monte Lussari 9,5, Lignano 24,5, Grado 24 con una temperatura del mare di 25,5. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi su tutta la regione: cielo in genere poco nuvoloso con la formazione di maggiore nuvolosità pomeridiana in montagna. Su pianura e costa soffierà brezza moderata, più sostenuta nel pomeriggio sulla costa. Non è esclusa la possibilità di qualche locale breve pioggia pomeridiana o serale. Sono più di 20.000 le persone che in questo momento in regione sono positive al Covid, il doppio rispetto a 2 settimane fa, ma si tratta probabilmente di un numero sottostimato perché sono tante le persone che scoprono di essere positive dopo un tampone fai da te che non viene registrato. Corrono veloci in parallelo i positivi in regione, il numero di tamponi tracciati in farmacia, ma anche di quelli fai da te, che tendono a sfuggire alle statistiche ufficiali. Hanno superato quota 20.000 le persone attualmente positive, praticamente raddoppiate nelle ultime 2 settimane. Nel 10% dei casi si tratta di reinfezioni. Di pari passo, riferisce il presidente di Federpharma, Luca De Grassi, se nei mesi di maggio e giugno erano stati fatti 46.000 tamponi, a luglio in una settimana ne sono stati effettuati 21.000. Ad un ritmo medio giornaliero nelle farmacie raddoppiato. Quasi la metà delle persone in coda risulta positiva. Ma, aggiunge De Grassi, si stima che i consumi di test domiciliari siano di molto superiori a quelli di tutte le strutture sanitarie. A livello aneddotico, nella farmacia di Santa Maria la Longa del presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Udine, Gabriele Beltrame, i tamponi eseguiti ogni giorno sono di pari numero rispetto a quelli venduti, fai da te. Rispetto all'anno passato, di questi tempi è decuplicato l'impegno del personale nella sua farmacia. In aumento anche le erogazioni dell'antivirale Paxlovid, da metà aprile ritirabile nelle farmacie. Va assunto entro 5 giorni ed è rivolto a soggetto ad elevato rischio di progressione severa della malattia. Secondo il monitoraggio AIFA, le richieste del farmaco Pfizer sono passate da 8 a 30 da inizio giugno a inizio luglio, ma solo ieri, aggiunge Beltrame, ne abbiamo viste uscire 5. L'arrivo della quinta ondata, così in anticipo rispetto alle previsioni autunnali, cade in un periodo in cui anche il personale delle farmacie, stremato, dovrebbe godere delle ferie e in cui si è alle prese con contagi e ricontagi del personale. L'auspicio di Beltrame è che si smetta di fare tamponi a tappeto, come chiedono le regioni, riservandoli solo a sintomatici o soggetti fragili. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il caro energia ha accelerato il fallimento annunciato della cartiera di Rivignano, azienda storica del territorio specializzata nella produzione di carte per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il rincaro dei prezzi di energia e materie prime ha dato il colpo di grazia alla cartiera di Rivignano. Il Tribunale di Udine ha avviato la procedura fallimentare di un'azienda che ha più di 60 anni di storia. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, l'attività era chiusa da settimane. Massimo Albanesi, segretario regionale di Fistel-CISL. Sicuramente il conflitto ha avuto anche lui la sua parte. Comunque questa azienda già nel 2013 aveva avuto uno stop, aveva usato parecchia cassa integrazione ordinaria, poi speciale. Nella ripresa del 2014 è partita claudicante. L'aumento delle materie prime e dei costi energetici di fine estate dell'anno scorso hanno iniziato a debilitare completamente l'azienda e siamo arrivati fino a questi giorni in cui non era più possibile che i costi energetici potessero essere riversati sui costi delle materie finite. Epilogo annunciato dunque per i 35 dipendenti, ma sindacati e istituzioni con gli assessori Rosolen e Bini sono al lavoro da più di un mese per creare un paracadute a favore di chi rimarrà senza occupazione. La prima cosa che abbiamo fatto è stato spiegare ai lavoratori che con la cassa integrazione speciale gli stessi possono accedere ad altre posizioni lavorative per determinati tempi e quindi possono provare nuovi lavoratori. In secondo luogo abbiamo attivato con la Regione Friuli Venezia Giulia un percorso che ci permetterà già la prossima settimana di andare a verificare i profili professionali dei lavoratori e le possibilità di impiego o di eventuale necessità di formazione messa a disposizione sempre dalla Regione al fine di ricollocare il personale. Al momento la situazione è positiva, circa il 30% del personale è già stato ricollocato. Altri stanno semplicemente attendendo la chiamata per iniziare a lavorare presso nuove fabbriche limitrofe a quella della cartiera di Rivignano. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. I sindaci della zona colpita dal maltempo di fine giugno hanno incontrato a Clout l'assessore alla protezione civile Riccardi per discutere degli interventi finalizzati a sanare i danni. La Regione interverrà attraverso la Protezione Civile e la Direzione Foresta per ripristinare le criticità rilevate dai sopralluoghi effettuati in elicottero immediatamente dopo il maltempo che ha colpito lo scorso 29 giugno la zona che comprende i comuni di Erto e Casso, Clout, Forni di Sopra, Cimolais, oltre a un'area della Val Settimana del Parco Naturale Dolomiti Friulane. Questo è quanto è stato illustrato nell'incontro con i sindaci della zona al municipio di Clout dall'assessore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi e dall'assessore alle risorse agroalimentari e forestali Stefano Zanier. Su Clout la protezione civile interverrà per ripristinare un'erosione che ha generato delle problematiche su alcuni tratti delle opere di difesa causati dalla piena del torrente Settimana. Inoltre la bomba d'acqua di fine giugno ha anche riattivato dei ghiaioni riversando sulla viabilità comunale un enorme volume di materiale inerte. Una serie di interventi per un importo di 5 milioni di euro per le opere emergenziali. Per quel che riguarda Forni di Sopra, la programmazione dei lavori riguarderà alcune frazioni e la messa in sicurezza di corsi d'acqua come località Cridola a causa dell'esondazione del Rio Calda, località Nuoitas a causa della compromissione delle difese dell'argine del tagliamento, località Davaras, strada per Giaff per deposito di materiale e Rio Suplisi per ripristinare la strada comunale. Clout, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. Corrado Premuda, insegnante, docente di corsi di scrittura privata, giornalista, direttore di una rivista per turisti e curatore di rassegne letterarie, è deceduto all'improvviso a Trieste. Aveva 48 anni e di recente aveva pubblicato il suo ultimo libro, Trieste senza Bora. Premuda è stato uno dei primi autori ad ottenere la residenza per scrittori di Pisino ed era un appassionato di Leon Orfini. Alcuni suoi libri sono stati tradotti anche in croato. Autore di testi teatrali, da tempo collaborava con le pagine culturali del quotidiano Il Piccolo e insegnava italiano all'Istituto IAL di Trieste. È stato stroncato da un male improvviso. Una notizia che viene da Villa Santina: i vigili del fuoco di Udine, in collaborazione con uomini della protezione civile, già da diverse ore sono alla ricerca di due tori scappati nella tarda mattinata di ieri da un'azienda agricola. A Ciolini di Fontanafredda è tornato Non solo pezzi di legno, Festival dell'arte di strada, che prosegue anche oggi. Io vengo da Correggio, Reggio Emilia, mi chiamo Francesco e sono un marionettista, non un burattinaio. Sono tutte mie creazioni, adesso vado a fare spettacolo, insomma vediamo come risponderanno i bimbi di qui. 20 compagnie di artisti di strada e 40 artigiani selezionati da tutta Italia. Laboratori per i più piccoli, giochi di legno e vecchi mestieri, musica ed enogastronomia. Per tutto il fine settimana Ceolini, piccola frazione del comune di Fontanafredda, ospita il festival Non solo pezzi di legno. Dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il direttore artistico Gabriele Rossetti. 25 anni fa avevo visto in un posto in Toscana un festival di questo tipo e allora ho detto ma perché non portarlo anche in Friuli e perché no anche a Ceolini che è un piccolo borgo e così lo rianimiamo e lo rifacciamo rivivere almeno una volta all'anno. Tante creazioni uniche realizzate a mano. Che cosa sta realizzando? Sto realizzando una maschera in legno. Queste maschere sono maschere tradizionali del carnevale di Rodda, delle valli della Tisone. Facciamo sapori naturali all'olio d'oliva, seguendo il disciplinare del 1600 del sapone di Marsiglia. E ancora magia e giocoleria capaci di incantare grandi e piccoli. Direi che ne hanno un estremo bisogno che può stimolare la loro immaginazione, la loro creatività e in linea di massima funziona sempre. Se il contesto è buono come questo, funziona sempre. Ceolini, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tratto da La meglio gioventù di Pierpaolo Pasolini e da Il film dei miei ricordi di Susanna Colussi, madre del poeta di Casarsa, lo spettacolo di e con Fabiano Fantini e Aida Tagliente intitolato Suspir di Memari Tanarosa. Sul palco il racconto delle vicende della famiglia Colussi, scritte da Susanna, che si intrecciano alle lettere tra lei e Pierpaolo e alcune poesie che il figlio le aveva dedicato in un percorso intimo fatto di piccole cose come ricordi, preghiere, vicende avventurose. A Udine, a Palazzo Morpurgo, alle 21. La rassegna La musica nell'universo letterario e cinematografico di Pierpaolo Pasolini prosegue con lo spettacolo dal titolo Meriggio d'arte, ideato e realizzato nel 1944 da Pasolini, in cui accanto a celebri composizioni classiche per violino e pianoforte è accostato il canto corale di alcune villotte popolari ed autore. Il recente ritrovamento di alcune melodie permette ora una riproposizione che vedrà al piano forte Ilaria Brognara e il coro Tetto Hermann di Roveredo in piano diretto da Alessandro Pisano. L'appuntamento è a Casarsa nella sala consiliare alle 18. Prima alzata di sipario per l'operetta in tre atti di Johann Strauss Junior, Il pipistrello, di cui in sottofondo state ascoltando l'ouverture, diretta da Nicolas Nägele con la regia di Oscar Cecchi. Lo spettacolo, considerato il massimo lavoro dell'operetta viennese, dietro l'apparente leggerezza presenta una profondità musicale, armonica, emblematica della cultura di fine secolo scorso, con composizioni molto virtuose per i cantanti. L'ambientazione è stata spostata al 1914, cioè all'approssimarsi dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, per richiamare l'attuale situazione di incertezza dovuta al conflitto in Ucraina. Appuntamento a Trieste, al Teatro Verdi, alle 20.30. Giornata conclusiva per il concorso internazionale Piccolo Violino Magico, riservato ai giovani talenti tra i 9 e i 13 anni da tutto il mondo, con partecipanti che quest'anno provengono anche da Giappone, Australia, Colombia e Turchia. Tra i premi, borse di studio, violini di pregiata fattura, concerti in Italia, il vincitore assoluto e la possibilità di partecipare ad una masterclass tenuta dai giurati a San Vito al Tagliamento nell'Auditorium Zotti a partire dalle 15. Prosegue la settima edizione di Mittel Libro, rassegna che anticipa il Mittel Fest di Cividale, con appuntamenti pensati come colazioni letterarie e dialoghi di autori italiani e stranieri per raccontare gli imprevisti, tema dell'edizione di quest'anno del festival, nascosti nelle pagine dei loro libri. Oggi protagonista è Drago Jančar, considerato il maggiore scrittore vivente sloveno, col suo ultimo romanzo tradotto in italiano dal titolo E l'amore anche ha bisogno di riposo. Appuntamento a Cividale, al Cortile di Firmine, alle 10.30. E ora passiamo alla rassegna stampa, incominciamo dal Piccolo di Trieste, mare sempre più caldo e allarme specie aliene, questo è il titolo di apertura, le temperature, scrive il quotidiano, sono 3 gradi sopra la media e nel Golfo ospiti inattesi si vedono come il pesce leone. La grande fotonotizia mostra un intervento della Capitaneria di Porto, titolo dei controlli ai soccorsi, la Capitaneria in missione. Sopra, runner triestino investito da un capriolo sulla Couture e bivacchi in Piazza Libertà di Piazza, dice basta o recinto l'area. Infine il ricordo, firmato da Arianna Boria, di Corrado Premuda. Diversa l'apertura del Piccolo di Gorizia, l'opposizione boccia la giunta, deleghe a caso. Dal Colonnino di Cronaca, percorsi ciclopedonali verso Corso Italia, lavori in via Aquileia. A Palazzo De Grazia, pronti a partire i lavori del Piano Nobile. Centrale A2A, il processo va verso la ripresa. Grado, torna la navetta che collega i park con le spiagge. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto apre con il report della Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati INPS in merito ai cambiamenti nell'occupazione in città. Raddoppiati in 13 anni gli addetti alla logistica, cresce il sociale privato. Spazio poi all'andamento dei contagi da coronavirus e poi le previsioni di inizio inoculazione quarta dose di vaccino agli over 60 e ancora il report dell'Agenzia Nazionale Nuove Tecnologie Enea che attesta i 700 milioni di euro finora spesi in regione grazie al superbonus. Per l'economia intervista l'amministratrice di Autostrade Alto Adriatico Anna Di Pasquale che calcola in 800 milioni di euro la cifra necessaria a completare la terza corsia della A4. L'edizione di Pordenone del Messaggero apre con un'analisi sulle nuove modalità di raccolta rifiuti partite in città a fronte di qualche disservizio e degli abusi di chi non rispetta le nuove regole. Spazio anche al nuovo mercato cittadino, al via entro Natale, in Piazza della Motta, con le novità anche per gli ambulanti. L'apertura dell'inserto che il Gazzettino dedica al Friuli riguarda un'analisi diffusa ieri e di cui abbiamo parlato nelle precedenti edizioni dalla CGA di Mestre, secondo la quale in Friuli Venezia Giulia quest'anno l'inflazione ha divorato 2 miliardi. Ogni famiglia, in sostanza, secondo la CGA, subirà a causa dell'aumento dei prezzi una batosta da 3.500 euro in un anno. La fotonotizia riguarda il fallimento della cartiera di Trevignano, accanto, quarta dose subito per i sessantenni, ma è incubo flop. Ancora edilizia, l'appello della UIL più ispettori del lavoro. Sotto un incidente mortale in Carnia, il sindaco dice poche pattuglie. Il sindaco è quello di Villa Santina che è stato sentito dopo l'investimento dell'altra sera che ha provocato la morte di un'anziana. Infine, per il calcio udinese, il turbo sulle fasce con Ebosele e Udoge. Nell'edizione di Pordenone l'apertura è la stessa, mentre la fotonotizia è per Villa Cattaneo, soffocata dall'erba alta. E ancora il richiamo ad un'analisi che troviamo anche nel Gazzettino del Friuli sull'interruzione di gravidanza in Friuli Venezia Giulia. Aborto difficile, il 50% dei medici è obiettore. Dei quotidiani nazionali, su Repubblica si legge l'intervista al ministro delle politiche agricole 5 Stelle Patuanelli intitolata «Alla fiducia in Senato potremmo lasciare l'aula» con riferimento al voto di giovedì sul decreto aiuti che potrebbe sancire l'uscita del movimento dal governo. Il Corriere della Sera informa invece sulla pubblicazione di una versione ampliata dell'autobiografia di Boris Pahor firmata con Cristina Battocletti. Dalla Stampa un'intervista a Sara Gama, capitana della nazionale femminile di calcio, con i pronostici sulla partita di stasera contro la Francia. C'è tempo ancora per qualche notizia. Giornata d'esordio per la seconda edizione di Vicino Lontano Monti, in programma fino al 4 settembre tra le montagne della regione. Il primo evento sarà nel nome di Pierluigi Di Piazza con la presentazione della nuova edizione di Bilal, reportage del giornalista Fabrizio Gatti dedicato al tema dell'accoglienza in dialogo con il fratello di Pierluigi, Vito Di Piazza, a Tualis alle 18. La nona edizione del Festival Teatri dell'Anima, che pone al centro la natura come luogo di rigenerazione, ha quest'anno come focus effetto terra per parlare dei luoghi naturalistici più belli della regione. Oggi in cartellone una passeggiata teatrale in cui attori e musicisti accompagneranno lo spettatore in una visita al condominio più multietnico della terra, cioè il Bosco, appuntamento a Polcenigo nel Parco di San Floriano alle 19. Il cartellone di Suns Europe, il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata, propone il concerto del produttore polistrumentista gallese Carwin Ellis a Pozzuolo del Friuli alla Corte della Casa della Musica alle 21. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia per la parte tecnica Carlo Morello, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Quindi a tutti voi ancora una buona giornata e una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.